Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Dieta mediterranea, la conosciamo tutti e sicuramente ne conosciamo tutti i vantaggi, ci mancherebbe altro. Penso che sia una tipologia di alimentazione tipicamente italiana che fornisce equamente contributi di proteine, carboidrati, grassi in maniera equilibrata. La dieta mediterranea notoriamente è la forma di alimentazione migliore rispetto insomma alle diete che possiamo trovare negli altri paesi, perché fornisce un apporto abbondante di vari elementi, appunto proteine, carboidrati in maniera consistente, ecco. Vantaggi che fornisce degli elementi che si dice provengano diverse patologie, fa molto bene alla salute, ecco. Ma la dieta mediterranea è, no, secondo me è mangiare sano, non so, mi ispira proprio mangiare cose sane, pomodori, olio, queste cose qui, caloriche o no, però ti fanno stare bene. Credo che sia una dieta antiossidante che previene i cosiddetti radicali liberi, e quindi è una dieta che comunque previene le malattie e in qualche modo allunga la vita. Anche gli Stati Uniti ultimamente l'ha adottata alla grande. La dieta mediterranea è la dieta tipica delle regioni del sud Italia, dove la fa da padrone la frutta, la verdura, l'utilizzo dell'olio, dove c'è un modo di cucinare leggero, e il vantaggio è penso che sia a favore della diminuzione dei radicali liberi, contrasta l'invecchiamento e insomma mantiene i giovani. Insomma, direi che ce la siamo cavati bene, siamo molto bravi. E qui in studio con me al Vinitaly, ve l'avevo anticipato, noi siamo al Vinitaly nel padiglione 3, ospiti dello stand del Trentino, ho con me la dottoressa Paola Reverso, che è medico nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Più Te. La vedevo molto soddisfatta di queste risposte, insomma è passata un po' l'idea che la dieta mediterranea, tra l'altro patrimonio dell'UNESCO, sia una dieta che fa bene alla salute, è il massimo. No? Buona, salutare, le ricerche lo dimostrano? Certo, le ricerche lo dimostrano sempre di più, perché è una dieta basata essenzialmente su un largo consumo di vegetali. Queste interviste hanno detto molte verità, perché la dieta mediterranea si basa su un consumo di verdure, frutta, cereali, legumi e una prevalenza di olio extravergine d'oliva. Fa rimanere giovani, allunga la vita, fa vivere bene, le ricerche dicono che è perfetta per contrastare la sindrome metabolica, ha un'attività preventiva nel campo tumorale, lo sappiamo tutto. Peccato che della dieta mediterranea ci manchino, come si dice, i fondamentali. Diciamo e pensiamo di conoscerla, ma cari amici, non siamo molto preparati, incredibile, no? Però è così. È tutto scritto nero su bianco, ci hanno pensato i ricercatori del Dipartimento di Medicina Interna dell'Invecchiamento e Malattie Nefrologiche dell'Università di Bologna. E in linea con noi abbiamo il professor Antonio Gaddi. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei, dottoressa Carbone, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un saluto dal Vinitaly. Professore, secondo... Sì, è dall'Università di Bologna. Ecco, così facciamo un gemellaggio. Professore, secondo i dati della vostra ricerca, la maggioranza delle persone dichiara di conoscere la dieta mediterranea, ma appena si scava un pochino più a fondo, solo 1 su 10 ne parla correttamente. Siamo a questo punto? O magari voi avete fatto delle domande difficili. So che erano 33. No, sì, le domande erano 33, ma erano molto molto semplici in realtà, ed erano ad esempio se lei usa friggere più volte nella settimana, oppure un elenco di tutti quelli che erano i cibi consumati, no? Ad esempio a pranzo se consuma primi piatti semplici oppure i primi piatti ricchi, cioè cannelloni, lasagne eccetera, sì. Le pizze, insomma, la carne bianca, facili. Eccetera. Quindi le domande non erano complesse. La cosa che ha un po' sorpreso è questa, che la domanda, lei conosce la dieta mediterranea, sa cos'è, Direi che l'80% degli uomini e delle donne hanno risposto sì, e un ragionevole in fondo 20% ha risposto no. Però alla domanda, lei segue, la sua alimentazione segue la dieta mediterranea? Noi abbiamo avuto una cinquantina, il 50% delle donne, un po' meno degli uomini, che in realtà non sapevano rispondere. Quindi è vero che avete, non sapevano, se quello che mangiavano seguiva la dieta mediterranea. Professore, è vero che avete rilevato degli errori grossolani, tipo persone che dicevano il colesterolo è nel pane, le proteine le prendo dalle verdure? Lei è svenuto quando ha letto questi dati? No, alcune. Un po' come faceva la mia professoressa di greco? Sì, qualcuno sostiene che ad esempio nei carboidrati, assieme agli amidi ci sia il colesterolo, cosa che non succede mai, perché il colesterolo è sempre abbinato alle proteine animali e ai cibi di derivazione animale. Le proteine vegetali, ad esempio le proteine nobili della soia oppure anche di legumi, non hanno mai colesterolo, tantomeno la pasta. Però ci sono stati errori grossolani di questo tipo, molti errori anche sull'uso dei fritti. Abbiamo scoperto che nonostante tutto abbiamo un 35% degli uomini, una percentuale lievemente minore delle donne, che mangia cibi fritti più volte la settimana, cioè non sporadicamente. Senta professore, poi grande confusione su questa famosa piramide alimentare, nata proprio per fare chiarezza, confonde parecchio. Insomma, che è anche una delle ragioni per cui noi abbiamo fatto un questionario. Qui c'è un concetto di carattere generale, quando si usano strumenti di carattere formativo educazionale per i cittadini, questi devono essere chiari. Ora, la piramide alimentare prevede una base nella quale ci sono i cibi che uno dovrebbe usare tutti i giorni, più spesso, no? Quindi, come diceva la collega nutrizionista prima, ad esempio i vegetali, alcuni legumi, eventualmente anche gli amidi, meglio i carboidrati complessi però, E poi a salire sempre sulla punta troviamo quelli che possiamo permetterci una volta ogni tanto. Esatto. Professore, io capisco dalla vostra indagine, e poi anche così mi piace lanciare una provocazione ai nostri ascoltatori, e cioè questa: facciamo un ripasso collettivo di quelle che sono le ricette proprio che caratterizzano il nostro stile alimentare mediterraneo, la dieta mediterranea. Chiedo ai miei ascoltatori da casa di telefonarci al nostro numero verde 800 24 00 24 e di raccontarci la ricetta che a loro piace di più. Vuoi perché l'apprezzano, perché è buona, vuoi perché ricorda la loro infanzia, vuoi perché quando la preparano hanno grande successo tra gli amici. Insomma, se voi foste un piatto, una ricetta della nostra tradizione mediterranea, quale ricetta sareste? Li invitiamo e commenteremo queste ricette con un pool di esperti, perché la dottoressa Reverso ci farà un po' il profilo nutrizionale, ma sarà sicuramente abbastanza morbida, no? Ti lascerà mangiare di tutto. Sì, certo, perché io cerco sempre il positivo e il bicchiere mezzo pieno. E il bicchiere mezzo pieno. A proposito di bicchiere, abbiamo Maria Grazia Brugnara qua in studio con me, è sommelier dell'Enoteca Provinciale del Trentino. A lei chiederemo, intanto Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno. E a lei chiederemo, Maria Grazia, di aiutarci ad abbinare il vino giusto, perché sappiamo, professor Gaddi, lei mi conferma che il vino ha delle proprietà salutari straordinarie, bisogna sempre privilegiare la qualità alla quantità, ma abbiamo il resveratrol, abbiamo i polifenoli, quindi un bicchiere di vino giusto è quello che ci vuole, ma non poteva mancare anche uno chef. E noi ci siamo rivolti ad uno chef stellato, è in linea con noi Andrea Baldone del ristorante La Fermata, autore tra l'altro con Paola Reverso del libro Un cuoco in famiglia, e per noi è uno di famiglia. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Andrea, tu attivati, perché tu ci dovrai dare tutti quei segreti che poi tra di noi magari non ce li passiamo. Come fa a venirti bene questo piatto? No, ma è così semplice. Però alla fine il segreto non te lo danno, quindi tu cerca di... Una cosa, innanzitutto, i segreti in cucina non è che esistano, è importante comprare le cose buone, già questa è la base, senza questo tutto è più difficile. Allora, intanto ai nostri ascoltatori che interverranno all'800 24 0024 chiedo, suggerisco di attivarsi, insomma di diventare un po' cucinosi, di raccontarci bene, perché Paola Reverso sceglierà tra di voi la ricetta, il modo in cui l'avete presentata più direi stuzzicante, e uno di voi riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS, Cuoco in Famiglia, libro molto bello perché oltre alle ricette è commentato da proprio da una nutrizionista. Professor Gaddi, mi dica lei la sua ricetta lì da Bologna, qual è la ricetta che più la rappresenta? Beh, non le dico una ricetta di Bologna, però alcune delle ricette di Bologna sono abbastanza pericolose sotto il profilo nutrizionale, in realtà sono buonissime le nostre ricette, io però amo moltissimo ad esempio gli spaghetti allo scoglio, che sono se cotti al dente con molto pomodoro, senza esagerare con i crostacei semmai, e insaporiti, sono un esempio di ottimo piatto, valido, e a me piace moltissimo, insomma. È un, possiamo considerarla un piatto unico, Paola? Direi proprio di sì, dipende poi dalla percentuale del pesce. Comunque la pasta ha un basso indice glicemico, quindi vuol dire che fa salire l'insulina lentamente. In più, se cotta al dente, un vantaggio in più perché l'indice glicemico si abbassa ancora. Andrea, la pasta allo scoglio, come si fa a mantenere proprio ben distinti e separati tutti i sapori dei vari pesci? Perché a volte si mangia una pasta allo scoglio ma il sapore è tutto uguale, invece no? La bellezza è a tenere il polipetto separato, no? Che si senta il sapore della vongola, della cozzarella. Come guarda, si fa? Per avere, in questo momento non sto facendo la pasta allo scoglio, ma una cosa simile. Io cosa faccio? Faccio un pochettino d'acqua bollente in un tegame con un goccio d'olio, e poi faccio aprire le conchiglie in quest'acqua, in modo che sento proprio i sapori del mare, conchiglie, quindi le cozze, le vongole, qualche minuto in acqua bollente, poi le faccio saltare all'ultimo, se avete piacere, appunto con la pasta. La pasta conditela con un goccio d'olio, anche solo olio e aglio, secondo me va benissimo, e fate saltare le cozze e le vongole e magari i gamberi o ciò che avete piacere di mettere nella vostra pasta. Maria Grazia, ci abbiniamo sicuramente un vino. Certo, allora il professore ha detto che aveva piacere di avere il pomodoro sulla pasta, sì. Quindi se mettiamo il pomodoro possiamo tranquillamente abbinare un bel rosato, un vino rosato, in Trentino potrebbe essere una schiava, sì. O comunque anche un Trento Doc rosato, quindi comunque un vino che non deve avere un'eccessiva freschezza. Se invece stiamo senza il pomodoro, perché ovviamente il pomodoro porta un po' di acidità, quindi non dobbiamo accentuarla eccessivamente, non mettendo il pomodoro possiamo stare tranquillamente su un bel bianco fresco, in questo caso, che può essere tranquillamente per il Trentino una nosiola, sì, per esempio. E scendendo possiamo andare a prendere anche un greco di tufo, che ha una bella sapidità, una bella freschezza, quindi anche un verdicchio delle Marche, comunque, insomma, dipende un po' Da quali tipi di pesce sono presenti, perché quando si fa una ricetta non è così facile fare l'abbinamento, perché bisogna capire anche quali sono effettivamente i gusti, quindi perfetto. È un po' più complesso il quindi discorso. Se avete dei dubbi, magari stasera avete una cena da preparare, un abbinamento che non vi suona tanto bene, 800 24 0024, la ricetta ve la diamo noi. Professor Gaddi, intanto la ringrazio, la saluto. Grazie. Spero che si possa mangiare presto un bel piatto di spaghetti allo scoglio. Grazie, cercherò di provvedere più presto. Grazie, buona giornata. Buona giornata a voi, buongiorno. Maccheroni, non ti distruggo, che mi guardi con quella faccia intrepida? Ti sembri un verme, Maccheroni. Questa è roba americana, vedi? Yogurt, la mostarda, o del latte, roba sana, sostanziosa. Maccheroni, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccheroni. Io me ne mangio. 800 24 0024. Raccontatemi la ricetta che più vi rappresenta, quella a cui siete più affezionate, quella che insomma sognate di trovarvi quando ritornate a casa preparata da qualcuno, o quella che fate voi e i vostri amici. Se foste un piatto della nostra tradizione italiana, quale piatto sareste? Alla dottoressa Reverso giro subito questa domanda, tanto lei non potrà ricevere a casa il libro, che invece riceverà a casa il nostro ascoltatore più cucinoso, creativo, stuzzicante, perché ci avviciniamo piano piano all'ora di pranzo. Dottoressa Reverso, che piatto la rappresenta? Ma io adoro la pasta e adoro tutti i cereali, anche i cereali in chicchi, con le verdure tagliate a pezzi molto piccoli e saltate in padella come mi ha insegnato Andrea. Quindi proprio un salto veloce veloce, perché lui, scrivendo il libro, mi ha ripetuto più volte: mi raccomando, le verdure croccanti, croccanti. E ha ragione, cambia. E Maria Grazia, come, da quale piatto ti senti rappresentata? Anch'io sono amante dei primi piatti e il risotto secondo me è una delle cose che amo fare di più. 800 24 00 24, abbiamo Vito che ci chiama da Trieste. Buongiorno Vito. Ah, buongiorno, buongiorno e buona giornata. Buona giornata a lei. Io mi identifico in un piatto così, diciamo, primaverile, sì. Fatto con salsiccia fresca. Sì. E poi con una spruzzata di vino bianco, alla fine mettendo un 200 grammi di fave sgusciate fresche. Sì. E alla fine cottura circa 5-10 minuti, mettendo una ventina di pomodorini pacchino. E sì. A fine cottura mettendo una spolverata di parmigiano e un trito di prezzemolo crudo. Magnifico. E poi cucinando. Vito. Sì. Ma questa la faccio stasera. E poi? Guardi, io ho l'hobby della cucina, anche dei vini. Sì. Guardi, questa ricetta io l'ho mangiata 20 anni fa in Umbria. Era sì. Fave con salsiccia e con gli ombricelli. C'è una pasta tipo è girata tipo un involtino, no, questa pasta sì. qui. È una ricetta speciale, le dico. Se lei soffrigge una salsiccia fresca, poi una sfumata poi di butto vino. Le fave no, una sfumata di vino bianco, salsiccia fresca, bianco. Poi una sfumata di vino bianco, poi le mette le fave fresche, un 2 etti di fave fresche sgusciati, alla fine una ventina di pomodorini pacchina, andrebbe meglio il Sammarzano, perché il pacchino però. Ma adesso non è stagione. Poi alla fine, una fine cottura, un trito di prezzemolo crudo e una spruzzata di parmigiano. Io metterei, ad esempio, lei mette il parmigiano, io metterei un po' di pecorino, Andrea. Si posso sì, mettere un po' di pecorino? Sarebbe molto bene, a mio parere. È una ricetta intrigante, perché è la stagione delle fave e quindi va molto bene. Si può fare anche senza i pomodori, visto che, come dice il nostro ascoltatore, non è proprio la stagione più giusta. Pecorino, fave e salsiccia, secondo me, è molto molto buono. Allora, intanto arrivano, devo dire, i vostri messaggi. Abbiamo Giorgio da Udine intanto in linea. Giorgio, la saluto, ma voglio intanto farle venire un po' di appetito. Intanto guardo i messaggi. Luca: linguina agli scampi, pachino, aglio, peperoncino, prezzemolo, olio e scampi freschi, rapidissimo e buonissimo. Se la dottoressa sarà morbida, mi scrive Gianni, come ricetta preferisco la pappa col pomodoro, più morbida di così. Mentre Eddie da Prato dice: io sono una bella ribollita alla toscana. Piatto completo e salutare. Giorgio, buongiorno a lei. Pronto? Buongiorno Giorgio. Buongiorno, telefono da Udine, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io ho avuto la fortuna di sposare una siciliana, anche se sono friulano, sì. e lei io chiedo continuamente che mi faccia il picchio pacchio, che non è altro che un sugo al pomodoro, pezzettini di pomodoro, con dell'aglio, olio e basilico. Un bel piatto di spaghetti e del pecorino romano sopra. Ottimo. Credo che sia una dieta mediterranea al 100%. Dottoressa Reverso, il suo parere e poi andiamo sul vino. Beh, è sicuramente un piatto leggero, ma soprattutto ricordiamoci che il pomodoro contiene una sostanza che si chiama licopene, che viene attivata dalla cottura. Quindi, a differenza degli altri antiossidanti, che è meglio consumarli dalle verdure crude, il licopene è l'unico che necessita di un po' di cottura. Quindi il pomodoro cotto, con le foglioline di basilico che lo insaporiscono, ottima ricetta, molto leggera, molto pratica. Bravo Giorgio. 800 24 00 24, Maria Grazia. E con spaghetti al pomodoro sempre qua bisogna vedere un po' come si fa l'acidità, però comunque potrebbe essere un vino rosso. Io vi faccio l'esempio del Trentino e poi andiamo anche su sì, perché tu c'hai il Trentino io ho il Trentino nel cuore, poi ovviamente siamo poi qua nello standard Trentino eccetera, come si e può? Io ci metterei un marzamino. Quindi il nostro marzamino è un rosso che si lascia bere molto volentieri, non è eccessivamente acido, non è eccessivamente tannico, quindi ha un bel equilibrio e una buona gioventù, perché si beve in gioventù, quindi si adatta molto bene. E andando in Sicilia, se si volesse stare sui vini siciliani, si potrebbe andare anche con qualche bianco, perché ovviamente i bianchi siciliani la moglie non di sono Giorgio così, è siciliana, così acidi, così freschi, quindi possiamo avere delle rotondità maggiori, quindi potremmo fare anche un grillo come vino, potrebbe essere interessante. E ovviamente poi le possibilità sono tante, perché come ripeto dipende molto dai tempi di cottura, dai condimenti, dalle quantità dei condimenti, perché quelli vanno veramente a influenzare notevolmente quello che è poi il gusto. Che ricetta semplicissima, Andrea, che deve essere però fatta d'arte. Riusciamo a sbagliare anche a volte, soprattutto quando le ricette sono molto semplici, forse non dedichiamo l'attenzione, diciamo dai butto un po' di pasta, ma è tutta una musica dietro a questa pasta, all'acqua che bolle, no? E la pasta che si tuffa dentro, insomma un'armonia. Noi la riprenderemo, ma intanto voglio salutare un amico che ho in linea, che sentiremo dopo i mercati, Federico Moccia. Ciao Federico. Ciao, buongiorno a tutti. Intanto grazie per essere con noi, tra l'altro nel tuo ultimo, il protagonista del tuo ultimo romanzo, che come sempre ha grande successo di vendita. È uno che di cucina non ne sa molto, però nel senso che non cucina, ma è un grande intenditore, e anche il sapere, il così esplorare questi abbinamenti, anche quello è un tratto così di seduzione. Federico, confermi? Ma assolutamente, Tancredi, quest'uomo molto ricco del libro L'uomo che non voleva amare, è uno che ama la cucina e quindi giustamente, come a volte è un uomo curioso, vuole abbinare il vino giusto, che poi proprio nel suo sapore può avere quella particolarità che incanta una donna, no? E certo, allora anche tutto serve, eh? Noi possiamo farci dare anche un po' di suggerimenti da Maria Grazia Brugnara, sommelier dell'Enoteca Provinciale del Trentino, che qua in studio con me insieme alla dottoressa Paola Reverso, un grande chef, uno chef stellato in linea, pronto, che è Andrea Ribaldone, pronto per darvi dei veri trucchetti, anche se i trucchetti non esistono. Noi andiamo a sentire i mercati e poi ritorniamo anche con Federico Moccia. 800 24 00 24, scatenatevi. Essere e benessere dal Vinitaly, ecco qua, essere benessere, siamo nel padiglione 3, ospiti allo stand del Trentino, oggi cuciniamo insieme. Ci siamo resi conto che della dieta mediterranea parliamo sempre bene, ma poi alla fine non la mettiamo poi in pratica, abbiamo ancora un po' di confusione. Allora io ho pensato, qual è la cosa migliore che fare un ripasso insieme? Lo stiamo facendo, inviateci le vostre ricette al 349-238-6666, ma consigliatecele all'800-24-00-24. Avremo un commento dalla nostra nutrizionista, da uno chef stellato, un sommelier, ma adesso andiamo da Federico Moccia. Federico, eccoci, allora, buongiorno. Ritorniamo rapidamente a Tancredi, che del suo sapere fa sicuramente un'arma di relazione, comunicazione e seduzione. Molti imbrogliano, A volte c'è un gusto naturale in questo, non è un imbroglio, no? Una conoscenza legata anche, io credo che la cucina, così l'accompagnare un piatto, come l'arte, sono come la musica, la classica, che in questo libro L'uomo che non voleva amare è un altro elemento dominante. Secondo me sono tutti elementi di piacere, ma anche di effettiva personale curiosità. Senti, quanto c'è di Federico Moccia in Tancredi? Per esempio nel mangiare sicuramente c'è. E quindi è stato, gli ho trasmesso tra virgolette quelle che sono state le mie conoscenze. La fortuna di aver avuto questo successo è stato anche un elemento sicuramente diverso nel poter essere invitato, certo, conoscere in maniera più approfondita i tanti piccoli paesi dell'Italia, i tanti piatti. È sempre diverso fare il turista piuttosto che invece andare veramente con le persone del posto, che sanno perfettamente come si svolgono le cose e qual è il piatto da ordinare in un posto piuttosto che in un altro. Senti Federico, la tua ricetta? Allora, vediamo come se la cava Federico Moccia. Non so se cucini o no, ma quella anche solo che ti piace mangiare. Esatto, anzi, e questa è più semplice. Soprattutto nelle vicinanze dell'estate bisogna iniziare a ripensarci. Io c'è questa pasta che ho proposto, che è una pasta a 3 metri sopra il cielo, ingrediente, sì, diciamo per due, con gli ingredienti per due innamorati. Allora, a me piace molto perché è una carbonara contadina, sono due, praticamente si prendono due etti di pasta corta, mezze maniche magari, un etto di ricotta, un etto di prosciutto cotto saporito, un tanto di sale e di pepe, una tazzina di latte e due pugni di parmigiano. Si trita grossolanamente il prosciutto, quindi in una padella mescoli la ricotta con il latte, poi la condisci con olio, sale e pepe e fai bollire la pasta. Quando stai per scolarla, la riscaldi un po' di ricotta sul fuoco per un paio di minuti circa, versi la pasta in una ciotola, ci unisci il prosciutto in pezzi e la ricotta e se sembra troppo densa ci metti un pochino di mestolo d'acqua della pasta. Cottura. Esatto. Federico, devo dire che mi hai conquistato. La dottoressa Reverso che cosa ha da dire? Perché lei fa sempre un po' le puntine. No, va la bene, ricotta va bene. O non formaggio ci piace? Sì, va giusto? Bene. Sì. Un equilibrio tra grassi e proteine. C'è un buon equilibrio tra grassi e proteine, anche se ci sono un pochino di grassi saturi, è una cosa giusta. Poi di solito in estate ci muoviamo di più. Sì, ma poi quando uno è innamorato brucia. E questa è proprio 3 metri sopra il cielo. Grazie Federico. Grazie. Maria Grazia però ci suggerisce anche un vino. Certo, un bel vino fresco. Secondo me con questo tipo di spaghetto oppure di pasta corta assolutamente ci vuole un vino bianco leggermente acido, proporrei un verdicchio dei Castelli di Jesi oppure, tanto per rimanere nel Lazio, un Frascati Superiore DOC. Fantastico, ciao Fede, un abbraccio, grazie. A voi, ciao. Buona Andrea, giornata. Tu li inseriresti, lo inserirai questo piatto? Ah, mi sembra un bel piatto perché invece che usare panna, burro, ho usato la ricotta, quindi è sicuramente interessante, non ci sono le uova, che sono la carbonara classica, è sicuramente un buon piatto, ma però magari eccessivamente sapido da proporre in un menù. Devo dire concreto, proprio quindi da passione. Esatto. La carbonara appassionata, io voglio leggervi prima. Intanto ho Venere da Milano, come non posso dare la linea a Venere. Venere, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma che nome magnifico, Venere. Grazie. Mi aspetti un attimo perché voglio leggere la ricetta di Roberto. Stiamo anche cercando delle ricette super veloci. Roberto assicura che oltre a essere veloce è buona ed è stata inventata proprio da lui. Si chiama Fusilli. Allora, quando è pronta, quindi io penso quando i fusilli sono pronti, si mettono nel piatto e si aggiunge in ordine formaggio grattugiato, succo di mezzo limone, olio e pepe. È super, come direbbero i francesi. Paola Reverso. Una meraviglia. Perché ti piace? Mi piace molto perché l'olio extravergine contiene vitamina E. Consumato a crudo la preserviamo perché è molto labile al calore. Per essere attivata la vitamina E, che è un potentissimo antiossidante, necessita della vitamina C nel succo di limone. Tutto a crudo, per cui anche la vitamina C è labile, a crudo ne beneficiamo. È perfetta. Quindi vuol dire che anche condire l'insalata con olio extravergine d'oliva e succo di limone, le nostre, no? Facciamo benissimo. Molto, molto, sì sì, perché ricordiamoci che si parla tanto di antiossidanti, ma magari qualcuno non ha ancora capito in realtà che cosa sono. Io che insegno un corretto stile di vita ai bimbi, semplifico semplicemente dicendo che gli antiossidanti sono un po' come le braccia della mamma che portano fuori l'immondizia dalla cucina, perché la cellula quando lavora è molto simile a una cucina, se vogliamo creare una metafora, perché ogni volta che la cellula lavora produce dei radicali liberi, è normale questo. La cosa che è importante è che questi radicali devono uscire dalla cellula. La cellula è la parte più piccola di noi, noi siamo fatti di cellule, devono uscire, e l'antiossidante permette di tenere la cellula pulita. Questo è un discorso molto semplice, però ma è quello che ci vuole per noi. C'è un lapsus però, che tu hai detto le braccia della mamma, ecco, provate a dire anche le braccia del papà, così questi bambini crescono e vanno anche loro a portare il pattume fuori, soprattutto con la raccolta differenziata. Venere, buongiorno. Buongiorno, non mi ero dimenticata di lei assolutamente, vorrei sapere la sua ricetta. Ecco, io amo molto cucinare questa pasta perché poi è molto richiesta anche dai miei amici quando vengono a casa, che è le penne alla norma. Magni, sai che è il mio piatto preferito? Oh, mi fa piacere, io sono siciliana e soprattutto questa pasta la preparo proprio con le penne rigate, perché prendono bene il sugo. Raccolgono. E il pomodoro deve essere, se si riesce ad avere il pomodoro fresco e si fa questa lenta cottura con la cipolla e poi si passa tutto il pomodoro, viene proprio questa passata di pomodoro e viene condita solo alla fine della cottura con l'olio extravergine di oliva. si tagliano le melanzane, io preferisco tagliarle a quadretto, a pezzetti. Mm. Le faccio a fette? Mm? Lei frigge, lei le fa a cubetti, io le faccio sì. proprio a fette le melanzane fritte. Ecco, infatti, io se ho, siccome ho sempre, quando gli amici ne ho tanti, farle a fette poi diventa difficile nel farla saltare in padella alla fine. Perché sì. poi magari a qualcuno capita più melanzane, ad altri meno melanzane. No. Invece tagliata così a tocchetti un po'... Ecco. E distribuisce meglio. Un po' a tutti. Venera, ecco. Io la ringrazio anche perché ha dato la ricetta devo dire che io ho diversi piatti preferiti, ma sicuramente la pasta alla norma è una di queste. Andrea, c'è un segreto per avere ad esempio una frittura delle melanzane che siano saporite, croccanti come la frittura, no? Ma non appesantite? Sì, guarda, in generale il segreto è sempre quello di cuocere in olio profondo, anche se sembra un controsenso, cioè più olio, però l'olio profondo è caldo in maniera più uniforme e quindi quando inserite sia le melanzane o altri cibi immediatamente va a formare una crosta che non permette l'entrata dell'olio poi nel cibo, no? Quindi non troverete un fritto troppo unto. E questo è un po' il segreto. L'olio profondo vuol dire tanto olio, tenere la temperatura costante, tenere la temperatura dell'olio costante, molto molto importante. Quindi non bisogna aggiungere cioè bisogna buttarli tutti insieme e tirarli su, vero? Esatto, non olio come profondo nel senso almeno 4 dita d'olio in una pentola, in un tegame adatto per la frittura. Ecco, e ricordiamoci di non aggiungere pezzi di melanzana o insomma altri ingredienti, perché tutte le volte che tuffiamo un pezzetto ancora nell'olio la temperatura dell'olio si abbassa, quindi tutto insieme. Dobbiamo valutare quanta roba dobbiamo friggere, quanto olio abbiamo per avere una padella. Oppure cominciare una frittura, togliere e far riprendere temperatura all'olio se abbiamo tante cose da friggere, quindi sempre a temperatura molto molto importante. Maria Grazia, rapida, prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ma io qua ci metterei un rosso. Ma qua ci va di rosso, dai. Possiamo metterci tranquillamente un bel nero d'avola, oppure un bel bardolino. E dato che so che sei affezionata al Trentino? Col Trentino. No, perché non vorrei, perché vedo che se non. Io ci metterei un Terol di rosato. Vedi, ecco, 800240024 alla vostra ricetta, quella che più vi rappresenta. Uno di voi riceverà a casa un cuoco in famiglia. A tra poco. Essere e benessere. Anna da Roma, buongiorno, benvenuta. Buongiorno signora Nicoletta. Io telefono. Siamo da pronti. Roma, ma sono una ligure trapiantata a Roma. E allora andrà di trofio, allora, di pesto. E allora strenette al pesto con i fagiolini e le patate. Ah, magnifico. Li butta, perché poi si cuociono tutte insieme, è anche un piatto molto veloce. La patata, sì, i fagiolini veramente di solito me li cucino il giorno prima, o ce l'ho che mi avanzano, insomma, poi il pesto ce l'ho sempre pronto io, con pecorino sardo, parmigiano, pinoli. Il basilico me lo porto dalla Spezia e lo pianto sul balcone. Ma non cambia un po'? Senta, Anna, ma questo basilico che viaggia dalla Spezia non cambia un po' sapore? Beh, forse la terra sarà diversa, perché da noi in Liguria dicono che piantano l'aglio e poi l'anno dopo ci piantano il basilico sopra nella stessa terra. Comunque rimane molto piccolo, profumato. Mi dura quasi tutto l'anno su un balcone molto soleggiato e quindi poi metto l'acqua, butto una patata tagliata a fettine, poi butto la pasta e condisco tutto insieme e vedo che i miei amici prezzano. E lo credo. È un piatto fresco, c'è un po' tutto, non c'è bisogno poi di mangiare altro a pranzo. Dottoressa Reverso, gli ascoltatori di Essere Benessere ne sanno troppo. Io adesso invito gli ospiti che non hanno più parole, dottoressa Reverso. Ma è un piatto sicuramente unico ed è tra l'altro un piatto della nostra tradizione. A me piace anche preservarla la tradizione, quindi è giusto farli questi piatti. Se non abbiamo problemi, perché la patata cotta per chi soffre di diabete ha un alto indice glicemico, quindi fa salire l'insulina velocemente, può dare dei problemi. Ma per chi sta bene, anzi, un ottimo piatto. Un ottimo piatto. Andrea, tu hai un trucchetto? Ah sì, ma a mio parere per tenere il colore del pesto vivo, vabbè, se avete la volontà e il tempo di farlo manualmente con un pestello, allora va bene, altrimenti nel frullatore fate congelare prima proprio il frullatore, mettete tutta la campana nel freezer e poi aggiungete le foglie lavate del basilico e quando lo frullate con l'olio un cubetto di ghiaccio, vedrete che colore intenso, verde intenso che rimarrà. Ma questo, Andrea, è magnifico, questo lo mettiamo anche sul nostro sito, quindi tutto... Allora, io voglio salutare l'avvocato Castronovo, presidente dell'Agenzia Internazionale Prevenzione per la Cecità. Voi sapete che Radio 24 è la radio ufficiale degli ipovedenti e dei non vedenti ed è qui, io l'ho incontrato al Vinitaly perché c'è una novità al Vinitaly. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Viva Radio 24 e questa splendida giornalista. Lei è siciliano, quindi lei ci deve poi dare una ricetta. Subito. Qui si parla di ricette per la bocca, per la dolcezza, i sapori. Io dico, parlo di una ricetta del cuore, metaforicamente parlando. Abbiamo creato un bar al buio, grazie all'amministrazione provinciale di Catania, al suo presidente Castiglione, che ci ha dato questa grande opportunità e possibilità. Il bar è al buio. Chiunque oggi, in questi 4-5 giorni della Vinitaly, può sperimentare in un minuto, due minuti, un'esperienza unica nella vita, essere al buio e quindi pensare ad altri, pensare ai non vedenti, pensare a questa gravissima minorazione che si può solamente superare con il sostegno, con la solidarietà, con l'appoggio delle istituzioni e della cultura e della solidarietà, lo ripeto, della società. Quindi questa bellissima iniziativa è una ricetta umana, perché avvocato, l'uomo deve crescere anche attraverso queste iniziative. Avvocato, quindi l'invito dell'Agenzia Internazionale Prevenzione per la Cecità è proprio questa degustazione al buio. Certo. Io vorrei chiedere a Maria Grazia Brugnara, ecco, degustare è ad occhi chiusi, può... È una cosa stupenda, vero? È una cosa stupenda in assoluto, perché metti, come ben ha detto il Signore, metti in atto tutto quello che è fuori della vista. Quindi cominci a affinare l'olfatto, a pensare proprio il tatto, le sensazioni che in bocca poi si trasformano in sensazioni gustative, ma anche sensazioni tattili, l'udito. L'udito diventa fondamentale, perché anche proprio è tutta una serie anche di stimoli, no? Cioè, se tu ci pensi, quando apparecchi un tavolo, se tu sei anche affamato e senti che muovono i piatti, posizionano le posate, già ti fa venire in mente, no? Qualcosa di questo genere. Ma poi sentire al buio, immaginati versare dell'acqua in un bicchiere e chiederti: sarà frizzante, sarà naturale, sarà del vino, sarà, cioè, quel liquido che ti stanno versando, il rumore che fa, ti dà un'emozione, ti fa pensare profondamente. E queste persone hanno, quindi il Signore ha detto una menomazione, giustamente, però avete in giro un alone, uno sviluppo di tutti gli altri sensi che sono assolutamente invidiabili. Tutti gli altri sensi. Quindi l'invito per oggi è anche così, prendiamo spunto dal Vinitaly. Proviamo a, anche se non siamo dei grandi estimatori di vino, ma proviamo a regalarci una bottiglia di qualità e proviamo a chiudere gli occhi e a sentire. Poi non saremo così bravi come fanno i sommelier che dicono crosta di pane, muschio, c'è l'olivo, c'è la sabbia del Malcitano, ecco, solo dentro di però noi. Però ognuno se la inventa, perché il vino è cultura ed è una cultura che si sviluppa di regione in regione, provincia in provincia. E io qua ho il piacere di avere il presidente dell'Unione Province Italiane, il dottor Giuseppe Castiglione. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Il vino è cultura. Ma il vino è uno straordinario messaggio culturale che parte da ogni angolo del nostro paese, unisce tutte le province italiane. Io ho avuto il privilegio e l'onore di essere in tutte le province, in tutti gli stand, in tutte le regioni, e abbiamo la più alta espressione culturale che possiamo immaginare. Insomma, quindi siamo forti. Siamo veramente forti. Quindi forse il vino è quello che unisce l'Italia, unisce i territori, unisce le peculiarità, le specificità, ognuno ha qualcosa da mostrare, ognuno ha qualcosa da mettere in vetrina, ognuno vuole esaltare quelle specificità che poi fanno grande il nostro paese, lo fanno grande anche nei confronti della competizione internazionale, anche nei confronti dei competitori europei. Io ho avuto il privilegio di essere in Parlamento europeo il relatore della riforma dell'organizzazione comune di mercato e ho visto quanto sia legato il mondo del vino a questo grande aspetto culturale, cioè quindi al territorio, alla valorizzazione del territorio. Quindi e soprattutto oggi noi dobbiamo difendere queste nostre specificità perché la competizione è sempre più globale. Quando pensiamo che i nostri competitor ormai sono l'Australia, sono il Cile, sono il Sudafrica, quindi dobbiamo difendere le nostre peculiarità, dobbiamo difendere le nostre specificità, i nostri territori, dobbiamo legare sempre più il vino al territorio. Quindi... E insegnare ai nostri ragazzi ad apprezzare la qualità, perché la qualità è anche tradizione e cultura. Ma quello sì, sicuramente. Noi con l'Unione Italiana Vini e con le province italiane abbiamo fatto un progetto di wine moderation per dire ai giovani bere bene fa bene, bere poco è figo. E quindi sicuramente per loro è stato un messaggio molto positivo perché abbiamo anche esaltato quei valori delle analisi sensoriali, quindi allora, i gusti, l'olfatto. Io starei ore con voi. Ma anch'io voi, volevo però un attimo complimentarmi con l'Unione Italiana CIE, con l'Agenzia per la Prevenzione della Cecità, l'Avvocato Castronovo, perché ci ha dato questa straordinaria occasione di non solo di degustare ma soprattutto di dare un grande messaggio sociale. Quindi per un attimo noi pensiamo a quanti ostacoli frapponiamo ogni giorno a loro. Quindi, è una riflessione, degustando un buon vino, tra l'altro con etichette Braille. Allora, abbiamo scelto Venere tra le vostre tante ricette, continuate a scriverle sul nostro profilo Facebook, possiamo scambiarci un po' di ricette. Io chiederò alla dottoressa Reverso, gliela butto lì, di commentarle. Facciamo un po', entra nel nostro profilo Facebook. Grazie ad Andrea Ribaldone, grazie a Maria Grazia Brugnara, alla dottoressa Reverso, all'avvocato Castronovo, naturalmente al presidente Castiglione. Grazie a voi che siete intervenuti, ci avete come sempre animato, coccolato. Il libro ve l'ho detto, no, Davide Ciocia, grazie, Filippa Oreggi, insomma i nostri tecnici davvero fanno grandi cose per noi, un saluto anche a loro. Noi ci sentiamo lunedì, buona giornata, scriveteci su Facebook la vostra ricetta del cuore. Essere e benessere.